Euroreportage. Siate meno dolci. V2E sullo zucchero. Di Cristina Carpinelli. Il cibo nell'era dei social, fotografato, discusso, studiato, diventa tema anche politico. Ma anni fa era così? Memorabile resta la scena del film Caruso Pascoschi. Mortadella è buonissima, c'è niente da fare, proprio buono. Mortadella è comunista, salame socialista, prosciutto democristiano, la coppa liberale, le salsicce repubblicane. Prosciutto cotto e fascista. Bisognerà capire dunque che tipo di storia è quella che stiamo per raccontarvi, chi ha fatto pressioni, se le ha fatte e chi ha invece magari strumentalizzato a fini politici il tema. E il tema di cui parliamo oggi è lo zucchero negli alimenti dei neonati. Sugar. Hello, I'm Keith Taylor, I'm here in the European Parliament. L'introduzione di livelli elevati di zucchero negli alimenti neonatali, soprattutto e specialmente in così tenera età, contribuirebbe all'incremento dell'obesità infantile, ha detto il parlamentare europeo Keith Taylor del gruppo dei Verdi. Argomento dunque che qualche settimana fa ha diviso il Parlamento europeo, che si è di fatto spaccato in due. E così chi ha votato per porre un veto sul progetto di norme comunitarie che permetterebbero agli alimenti neonatali di continuare a contenere quantità di zucchero fino a 3 volte superiori ai limiti raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che a far pressione sono state le lobby alimentari che gestiscono il settore. Pier Nicola Pedicini, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, è tra i 393 parlamentari che hanno votato a favore della riduzione dello zucchero nei cibi per neonati. La Commissione ammetteva il 30% di zuccheri liberi, invece nella proposta che noi abbiamo appoggiato, che è la proposta di uno dei Verdi, che si chiama Taylor, si introduce la raccomandazione, cioè i valori che hanno raccomandato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè 10% dell'apporto energetico complessivo. Però poi in realtà questo come limite massimo, il valore invece raccomandato è addirittura un valore fissato a un valore inferiore al 5% dell'apporto calorico energetico complessivo. Quindi noi abbiamo appoggiato quella proposta lì, perché naturalmente per noi la salute è la prima cosa, piuttosto che le posizioni della Commissione, che invece sono più posizionate sugli interessi delle lobby economiche, che hanno fatto molta ingerenza dal nostro punto di vista. Cioè che tipo di ingerenza? Supponiamo che loro certamente no, non sono venuti da noi, questo no, hanno avuto una grossa influenza su questa decisione, ce ne siamo resi conto, perché se l'Organizzazione Mondiale della Sanità dà questi dati basati sul fatto che ormai c'è una presa di consapevolezza in tutto il territorio dell'Unione Europea, che c'è una prevalenza del sovrappeso in età pediatrica che supera i valori preoccupanti, allora per noi questo qui è una priorità, la salute è una priorità, specialmente dei bambini. Quindi adesso inizia una procedura di discussione a livello dei servizi interni della Commissione, che dovranno quindi fare un follow up, cioè garantire che vi sia un'adeguata implementazione delle obiezioni che sono state portate dal Parlamento, cioè quelle di cui parlavo prima. In particolare quello è uno degli emendamenti, in realtà c'è un altro emendamento molto importante che è passato, che introduce il pericolo di cibi OGM e nanotecnologie in questi alimenti. Noi siamo riusciti a adottare finalmente il principio di precauzione, secondo il quale quando i rischi sono sconosciuti bisogna adottare il divieto per la commercializzazione, diciamo l'ingerimento di queste sostanze. Dall'altro lato invece chi si è detto contrario e sostiene che sia stato strumentalizzato l'argomento trattandolo in modo approssimativo. Elisabetta Gardini, europarlamentare del Partito Popolare Europeo. Abbiamo votato contro, guardi, veramente perché non se ne può più, perché noi abbiamo lavorato nella scorsa legislatura anni per mettere in piedi questa direttiva che è sugli alimenti speciali, dove ci sono anche alimenti a fini medici, alimenti per neonati e di proseguimento. Allora, noi, guardi, tutte queste giuste preoccupazioni sono state analizzate, sviscerate. Poi, una volta che il Parlamento tutto ha approvato questa direttiva, ci sono poi degli atti di implementazione che vengono fatti. Ora, per il regolamento del Parlamento basta che un parlamentare ponga l'obiezione e si blocca tutto. È stata questa volta posta l'obiezione su un dato che apparentemente, voglio dire, no, che è molto sensibile e che quindi diventa un modo demagogico non di fare politica, ma di fare ideologia e di andare incontro a quelle che sono le preoccupazioni giuste, no, dei cittadini, che non è che hanno seguito tutto l'iter parlamentare, che non sanno tutto il lavoro che è stato fatto, eccetera, eccetera, ma guardi che oltretutto con l'Agenzia della Sicurezza Alimentare di Parma, l'EFSA, che è stata chiamata dalla Commissione a fare un ulteriore studio e a verificare appunto quelli che sono i limiti. Per cui c'è veramente una demagogia che è veramente brutta, perché si strumentalizzano le preoccupazioni giuste delle persone e il cittadino non può sapere cosa c'è dietro a tutto questo. E quindi noi invece, con senso di responsabilità, abbiamo detto: noi non andiamo dietro a questa ondata demagogica, e avendo lavorato e essendoci applicati per 3 anni nella scorsa legislatura a questa cosa, ribadiamo il nostro voto che era favorevole a questo regolamento. E ripeto, lei lo sa che secondo i limiti che questi vorrebbero mettere, che sono i massimali comunque, se noi schiacciamo una banana o grattugiamo una mela, daremmo al bambino qualche cosa da mangiare che supera questi limiti. Quindi siamo nella piena demagogia. Abbiamo provato a contattare l'EFSA, che viene citata nell'intervista. Abbiamo chiesto loro un parere e la possibilità di poter parlare con un loro tecnico, ma ci hanno risposto di non essere nella posizione di poter intervenire, avendo non ancora pubblicato un parere scientifico. Siamo andati allora a sentire il professor Gabriele Riccardi, professore associato di malattie del metabolismo e ricercatore presso il Barilla Center for Food and Nutrition. Si tratta di una educazione del gusto. Il gusto può essere educato, questo noi lo sappiamo molto bene. E in effetti, proprio nei primi mesi di vita il gusto del bambino viene educato. Se per esempio ad un bambino non viene dato il sale nei primi mesi di vita, il bambino non ha il piacere, no, legato alla salatura dei prodotti, e quindi si abitua a mangiare prodotti più sciapi e li trova gradevolissimi. Se invece noi gli mettiamo il sale già nei primi mesi di vita sugli alimenti, il bambino acquista questo gusto al salato e poi diventa difficile in questo senso tornare indietro. E lo stesso succede con lo zucchero. Ora, qual è l'esigenza, per esempio, nel momento in cui noi diamo al bambino, una volta che è stato svezzato, latte vaccino, di aggiungere ulteriore zucchero nel latte vaccino? Non c'è questa esigenza, perché già il latte ha un suo sapore dolce equilibrato che non richiede aggiunta di zuccheri ulteriori. Dunque, il parere degli studiosi è abbastanza allineato e l'idea di fondo è quella di seguire le indicazioni dell'OMS, che da ormai molti anni lavora sul tema degli zuccheri. Ancora il professor Riccardi. Credo che su questo non ci siano dubbi. Ovviamente, l'entità della riduzione varia da paese a paese. L'Italia probabilmente non è tra quelli messi peggio rispetto ad altri paesi come per esempio la Spagna, però il fatto che un eccesso di zuccheri possa essere dannoso per la salute del bambino e dell'adulto, credo che su questo non ci siano dubbi. C'è un articolo pubblicato sul Lancet da Yudkin, che è un noto epidemiologo inglese, negli anni 70, che definiva lo zucchero puro, bianco, letale. Molti pensavano che si riferisse alla cocaina, ma in realtà parlava dello zucchero. Quindi già dagli anni 70 si incominciò a intravedere possibile rischio per la salute legato a un consumo eccessivo di zuccheri. Oggi il problema torna di attualità, perché noi ci troviamo di fronte all'esigenza di contrastare questa epidemia di obesità che interessa soprattutto i bambini e che può avere un impatto devastante sulla salute delle nostre popolazioni, sulla longevità. Questa limitazione dello zucchero fa riferimento specificamente agli zuccheri aggiunti, non quelli che sono naturalmente presenti negli alimenti, che no, quelli non vanno toccati. La frutta, anche se è dolce, va benissimo, se ne consumi con liberalità, il latte è dolce, va bene, non c'è problema. Qua parliamo di zuccheri aggiunti, bevande zuccherate, dolce e così. Diciamo, la cosa importante non è tanto tornare indietro, ma soprattutto non aumentare ulteriormente questi consumi. Però certo, se dovessimo seguire la strada degli americani, dove le bevande zuccherate sostituiscono l'acqua a tavola, credo che quello non sarebbe una strada giusta da perseguire. Dietro lo zucchero ci sono poi anche le tante differenze che, come sempre, raccontano l'Unione Europea, che si muove diversamente da paese a paese. I primi della classe nell'attenzione al cibo dei propri bambini sarebbero gli svedesi. Le cose dunque sono parecchio cambiate da quando Pippi Calzelunghe se ne andava in giro mangiando ciò che preferiva. Pippi Calzelunghe, così mi chiamo. Credo proprio che una come me non c'è stata mai. Euro Reportage. In collaborazione con Euronet Plus.